E ben ritrovati come sempre ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre il vostro Jean-Luc, altra puntata con ospiti in studio, stasera con noi membri di una formazione emiliano-romagnola che viene a presentare il suo primo disco. A voi le presentazioni. Ciao, buonasera, noi siamo i Violet Gibson, siamo qui i tuoi ospiti, io e il bassista, come hai detto tu siamo emiliano-romagnoli perché siamo divisi tra appunto Emilia-Romagna, io e il bassista siamo di Parma, mentre invece batterista faentino e i due chitarristi imolesi, per cui siamo sparsi sul territorio, diciamo. E siamo qui per presentare il nostro disco, il nostro album, le nostre canzoni. Ed allora con i Violet Gibson, una prima parte in cui ascolteremo alcuni protagonisti della scena hard rock americana degli anni 70, partendo dai Grand Funk Railroad, che abbiamo ascoltato nel disco Live Caught in the Act 1975. Band nota per le sue performance a tutto volume, che ha collezionato vendite importanti in quegli anni e che ha portato nell'hard rock quella muscolarità che da allora è quasi essenziale. Che ne pensate? Ma io ho il dubbio di averli anche visti. Qualche video, non so se erano a Woodstock o giù di lì, però se sono quelli che dico io, erano dei gran bei ragazzoni. Io penso che la muscolarità si fosse sentita molto anche in questo pezzo. Diciamo che non sono le chitarre di oggi, però adesso sembra grande, però spingono. Sì. I Violet Gibson si formano nel 2007. Come è nata l'idea di questo gruppo e perché avete scelto questo nome? Ma l'idea è nata da una mia permanenza di qualche anno a Faenza per motivi musicali. Lavoravo al Mail, meeting delle etichette indipendenti. Ci lavorava anche il batterista e nei nostri viaggi in macchina mi faceva sentire i suoi provini, diciamo, che facevo in casa. Erano molto interessanti e volevamo mettere insieme un qualcosa. E da due siamo diventati tre con l'ingresso di Matteo il cantante, poi cinque con l'ingresso dei chitarristi. Una volta avuta una formazione stabile e forte, vincente, di tutto il materiale che abbiamo scritto, abbiamo scelto quelli che sono poi finiti per diventare i 13 brani del nostro primo album American Circus. Ancora rock e passiamo a Ted Nugent, il feroce chitarrista dalla lunga carriera, esce nel 1977 con il disco Cat Scratch Fever, che lo consacra uno dei grandi del genere. Da quel lavoro il brano Live It Up. Personaggio ancora caratteristico e curioso nel panorama musicale a stelle e strisce, Ted Nugent ha saputo resistere al passare del tempo in virtù di una sua tenacia e costanza nel suonare dal vivo, tanto da aver superato nel 2009 quota 6.000 concerti. Che ne pensate? Ah, io penso che anche ascoltando questo brano si capisca molto bene la sua tendenza live. E capisco anche che abbia venduto un sacco di copie anche in virtù di questo. Ecco. Penso che questa musica sia proprio portata in questi locali, in questi live set dove dà il meglio. Vostre esibizioni, come sono andate finora e come reagisce il pubblico al vostro set live? Ma noi siamo molto soddisfatti di come sta andando la presentazione del nostro album, perché fondamentalmente è quello che noi definiamo un tour promozionale, e proporre già un CD con 13 canzoni nostre, sono 12 canzoni nostre più una cover reinterpretata, che determina poi quello che è il fulcro centrale del nostro concerto. Noi abbiamo un set di circa un'ora abbondante e quindi dipende anche molto da come riesce a rendere, perché è ovvio che il pubblico non conosca le canzoni se non quei due o tre singoli che sono girati più degli altri, e quindi devi essere in grado tu di mantenere alta la tensione grazie anche alla dinamica che devi riuscire a dare in quell'ora in cui devi dare tutto, ovviamente. Concludiamo questa prima parte con i Blackfoot, la formazione di Ricky Medlock, attualmente in forza Lynyrd Skynyrd, conquistò le arene americane alla fine degli anni 70 in virtù di un southern rock muscolare d'impatto. Dal disco Fly High del 1976 ci ascoltiamo Madness.